No, lo sento basso basso. Se volte Giovanni la Plattamola, ma lo sento bassissimo, non lo sento. Lo so, vabbè, dopo non posso affrontare nessuna spesa. Ma me lo vorrei prendere un 125 per spostarmi d'estate. Ascolta un po', l'assicurazione molto paghi. Vieni a trovarmi. Salute, vieni a fare la Al circolo lì. Io c'ho una pizzeria a Corallo. Se glielo dico io, sì. Benissimo, va bene. Positivo, frate, dai, vita mia, che bella, sui da via che era. Giovanni, non lo scizio pure. Basso, basso. Strano, prova un po', Giovanni. Basso, basso, lo sento. Poco qua lo sentivo, arrivava a 5. Sicurini è attaccato quello. E c'è l'antenna, c'è un arrivo. Una vuole fare la prova, una vuole fare la prova, Che sto per dirmi tu? No, la fa tanto, ma non voglio ancora, la fa tanto, ma non ho lasciato molto forza. Adesso ti ascolto, Giovanni, tu mi ascolti bene? Ma parlami, sono buona, lo voglio dire, ma non ho pulito ancora. Sì, va bene, oggi sto per farti sentire, adesso mi arrivi i segnali 5. La radio è un po' così, non è buona, comunque ti ascolto, dai, non c'è problema. Io sto uscendo con pochi watt, sì, solo con aspetta. Hola. Oh, tipo 12 watt, così, 12-13. Così tipo, frate, dai, vita mia, ti ascolto a vorrei chiaro qua, che bel gabel. So. Ciao, fra. Non ci stanno problemi, vero, California, che bel. Stai usando le 68, fra. Franco. Franco. Ehi, ciao, fra. Ehi, 68. No, no, a te, sono California. Ah, allora, California. E allora, sono le 5, sembrano 10. Ehi, così, questo tanto. Ciao, Giovanni. Buonasera. Califu. Che è, qua? Chi è, per te, chi è? Ho aperto la LC a questa radio, com'è? Va bene? La Ricina l'ha aperto. E la Ricina ne ha giocavata, come te? Cazzo. Esce bene, ma è 68. Cava di positivo, frate, tutto sotto la 68, 68. Che c'è? Allora che ha giocato la Ricina, fammi un passaggio. Ma ha giocato la Ricina, da giocato la Ricina. Ciao Luca, passi. Sì, Luca, Franco, solo, ciao. Ciao, fra. Franco chi? Sempre Susu. Ah, Franco di Susu, cazzo. Allora arrivo pure a Susu, va. Così così, sì. Pensavo che non ci arrivavo lì. Piano piano, che ne è capo della vicina, se avessi fatto il tatuaggio ci sono un po'. Allora. No, l'ho aperto un po' questo apparecchio perché non c'aveva radio, capito, fra. Aumentaglielo. Già fatto, di più non ha. Ma stai usando il microfono originale? Il microfono normale ciò. E allora lo usa voi. Se non l'ha perfeccato gaisci. Ma infatti lo lascio questo qua adesso. Vabbè dai, riprendi che lo chiudo. Ehi. Giovanni! Sto bianco un attimo, là. No, veramente avrei riuscendo un po' carino dalla Sonnardo, tutto male, sta riuscendo. Non so, cos'è, è agganciato qualcosa. Tu hai scattato qualcosa, ma mi voglio migliorare, dimmi che non hai mai sentito niente di simile, dimmi la verità, Mario, dimmi la verità. Tutto saturo, sì, tutto saturo. Sei saturo, vai, sgancia, mettilo normale come eri prima. Capo. Sta riuscendo bene poco fa. Sì, ma la radio era più pulita poco fa. Era. Adesso si è sporcata. Luca, com'è? Come la senti? Ehi, saturo, dai, io mi assento un attimo, dopo devo uscire. Mi prende per voi, gabba. Ciao Luca. Sentiamo allora. Fra. Sono vicino in maniera, sono fra quanto vuoi che avete contagiato, cazzo. Sì, Claudio. Sì, Claudio, sì. Via. Ho pensato di saltare, Giovanni, già detenendo, ma vuoi Alzheimer, guarda. Cosa che c'è? Ah, Giovanni sta dicendo, ci è giunto un nuovo Alzheimer, guarda. È entrato Giano, è diventato il biglio dell'altri. Ormai è la botta. Tu gli hanno dovuto che sapere già te che gosto. Ma certe cose dovresti sapere. Che vengono dopo. Quello dopo ho imparato a piccare, infatti quello dopo mi c'è copia a vendi, a me è passato un po' così da piccare. Fatti della rovescio, Giovanni, fatti della rovescio. Giovanni, sei tutta frusci, sì. Guarda, stai attento che non bruci qualcosa. Vai, staccalo quell'affare. Il muro in legnare, bisogna controllare le stazioni orarie, se tutto a puccio. Appunto. Poi ciao a tu. Ciao. Domani che è un attacco, se non sa 1-1 in stazioni orarie, vediamo a chi rivenga. Grazie, non cazzo, grazie, non cazzo, e poi cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non Vediamo, se no mi si cura con la pittorra, mi si cura, mi amare che ne venga. Se no sei tutto a posto io non li attacco. Oh. Avete sentito il amico Peronino, mi pare che sia di costruttore, una mangiata, Gianni, mi pare che si chiama. Peronino, io sono Peronino, oggi non è. Peroncino, ehi! Siamo di costruttore, mi pare che sia Gianni Peroncino. Gianni Peroncino, boh? Ma inteso? Mi sa che non sento altri, che è costruttore, ma io ti scendi da così. Hola, hola, hola. Attento, vieni avanti. Chi è? Buonasera. Buonasera, io mi sento Mario, mi senti contagiare, cioè se sei Natalino, mi senti contagiare, cambio, dimmi che sei Natalino. No, sono Natalino. Grazie, va, mi sento molto. Gianni lo più lungo, e tu chi sei? Attenzione, Peroncino, dove sei? Peroncino, ciao, Peroncino. Chi sei? Peroncino. Ciao, Peroncino, come stai? Tu dove sei, Peroncino? Ma mi senti o non mi senti, Peroncino? Ehi, ti sento. Forte e chiaro, dimmi la verità. Ehi, a forte, forte. Santiago Novara, più 5. Dove sei? Forte e chiaro, dimmi che non hai mai sentito. Dimmi la verità, Peroncino. Ma non te ne vedi? Sempre con il titolo. No, capito. Sono sempre con il titolo, sempre con il titolo. Con di Polsi, e cosa ha fatto? No, sono riuscito, c'è il comandante che l'ho conosciuto. E sono riuscito più o meno a regolarlo, ma ancora non del tutto. Comunque, piano piano, ci sto capendo qualche cosa. E molto sono criticato, mangio. E ancora mi vanno giù, che non ne comprendo nulla. Tu non tocca, se non sei tocca. Gianni Tartanella. Luca Manicomio. Gianni San Camillo. Gianni Nannini. E beh già. E beh, uscendo stai lui. Mi tocca, ieri sono uscito. Stanotte, turni. E mangiamo una pizza, poi andiamo da Bruno. Luca, serve un consiglio. Vai a Fredanera, a fianco alla piazzetta, c'è una pizzeria che si chiama La Ruccia. Vai lì che se la pizza la fanno buonissima, in più, oltre la pizza, con la spesa della pizza ti danno, prima della pizza ti danno, ti portano, come si chiama, supplì di riso, tutta questa roba qua, senza fartela pagare, te la offre la ditta. E poi, alla fine è il dolce. Già, ma se mangio chi ti supplì e bombano mangio la pizza, vuoi mangiarmi la pizza bene, capito? Già ho fatto male da poco fa, in più se arrivi in chi mangio questi supplì o queste cose che ti danno, la pizza non me la mangio, capito? È quello. Non ce l'ho fame, ci mangio la pizza, poi se c'ho fame bene, mi posso il gabù di supplì, se no pazienza. Ma con una pizza a voglia lì, c'ero alla grande. Allora, praticamente io sono andato, fanno la pizza alla napoletana, quella che ha i bordi alti, ed è fina la pizza, ma buona la pasta, poi puoi sceglierla come vuoi, la pasta normale, la pasta con i celiaci, c'è la pasta ai cereali, capito? Come la vuoi te la fanno. E in più la pizza è buona. Cioè, io poche pizzerie ho mangiato la pizza così buona. Ma mi trovo bene anche da Bruno che la fa a forno a legno, è buona, sì. E poi non si spende neanche tanto, in due con 20 lo mangi e ben sì. Va bene. Cosa? Una vita Oh, Luca, lo sappi che ci fa sempre. Luca, vivo è ancora Bruno. Cosa? Non ho capito. Ha detto sei ancora vivo Bruno, coso? Per un cibo, frate. Sì, sì. Perché ci andava da ragazzino a mangiare la pizza lì. C'era una pizza lì. Al corso, prima al corso. Al corso, forse di giorno a Roma. E poi si già lo so, sono andato sia al corso che l'io, tutte due le parti, quando io avevo la greppa, che ero un ragazzo, andavo lì sia al corso che poi dove si trasferì. Boh, non ho anche confuso usando la b***a. Non l'abbiamo. Ho detto, se vi ricordate, quando si aveva sempre la fronte rotta e sudata, discendevano le gocce dalla fronte. Eia, eia. Sudava facendo le pietre e riparava la goccia. Se c'è la goccia è gigi. Più buona era, non le dame era. Lì è, se c'è la goccia è buona. Più condita era, più condita era. Che schifo. Vabbè. Io sono una barzelletta che praticamente questi due militoni militari in tempo di guerra, tutti carichi di munizioni, salgono in questa montagna, gli viene una fame da morire, vedono una casa con le luci e bussano e aprono una vecchietta, gli ho detto, signora, ci avete qualcosa da mangiare, cose, e vi dovete accontentare, c'ho delle uova, delle galline che c'ho e basta, vabbè, ci facciamo le uova fritte, non c'è problema. Smetto, stava facendo le uova e gli è sceso, a starnutito gli è sceso il bucio nelle uova. E uno di questi due militari ha visto la storia e non ha mangiato, ma non l'ha distrutto all'anno. I tabinati si hanno mangiato tutti i lupi. Poi la notte a quello che non aveva mangiato gli è venuta fame e è andata a cercare nella credenza di questa signora, ha trovato un pezzo di lardo, ha cominciato a mangiare lardo. Stamattina con la vecchietta stava cercando roba e questo militare gli ha detto, ma che cosa sta cercando? È il lardo che mi pulivo le morroidi. Ma ti immagini, se non ha mangiato l'uovo, se non ha mangiato l'uovo, se non ha mangiato l'uovo. Ma che cosa cambia? Chi è? Chi è? Va? Ascolti questa piccola moderazione, Gianni, buonasera, capo. Buonasera, buonasera, la moderazione è bella, bellissima, questa volevo sentire. Andiamo, andiamo, catta. Attento, Princeton, se ascolti doppio room, cambio. Vabbè. Ma cosa gli ho fatto per uscire così forte? Ma che stai dicendo? Sto scendendo bene adesso, però mi devi dire cosa gli ho fatto, cosa c'è di niente? No, penso se l'attacco di storia è con brutto, rispetto, rispetto. No, si è fatto soltanto domanda di questo cazzo di chi non ne comprendo un cazzo, non ti dico un cazzo, non cazzo di dare giù. E vabbè, bisogna saperlo usare. Capa, Luca, ripeti. Lucrezia. Aspetta, Peruccino, Peruccino, non mi ha fatto la mano, Peruccino. Peruccino sei tu, lui. Io sono tuo padrino e tu sei Peruccino. Io sono Giovanni Stanco, cambio, attento, Giovanni Stanco, Stanco, ti ho detto pure la lingua, è fatto la mente, cambio, per giocare con la mia situazione. Stanco, sì. Sempre, poi se tu mi vuoi battezzare, cazzo mi devi regalare qualche cosa, cazzo, cazzo, guarda padrino, io ho detto pure, cazzo, lo coso di Peruccino, ma no, cazzo, dai, basta, per il rilascio, cosa mi sono? Ehi, ti regalo un peroncino e ti baci il culo. Ma non vai a fare. Avanti, avanti, bravo. Ma non vai a fare. Voglio sentire la mia risposta. Forza, forza, non si, attento russo. Ehi, te bada, te bada. Avvisino, avvisino, russo, russo, voglio sentire. Dimmi, dimmi, cosa c'è? Cosa? Fammi l'ora, che sei di tutti? Io sempre Franco mi chiamo. Bella Franco, ascolta, ma il fratello di Dio già mi conosce. Guarda, stai uscendo male del radio, una volta non ti capisco. Attento Franco, tanto ti sei di cambio. Ehi, dai, dimmi. Conosci il fratello di Dio, di sotto? E tu dove stai? Peru. Ti ho chiesto se conosci il fratello di più, cazzo. No. Guarda, guarda, guarda, ma non c'è altro da brinco. Io ci ho capito a volte, cazzo. Un casino. Prima avevo una radio bella, ma cosa l'hai fatta questa radio? Mi parlavo. sottosotto 60 5 euro, e ripeto, sottosotto 60 5 euro con il sottosotto. Ma è fate durare dei laghi. Mi ha mandato il video, e tutto quanto mi parla da una cosa testa. Ecco. Ma quando vai a quelli per prendere un baracchino pago con quei soldi lì, ma manco il bacionno. Oh, sul testimone, c'era una cosa, il cane doppio rum quando la si può parata, per esempio. Ecco. A me lo sono avvenuto. E che radio è? Radio Faula. E cos'è già? Ha detto Radio Maura. Cava, cava, ciao Franco, buonasera, mi ascolti, sì? Cava, cava, 9-5, Radio Zinco. Aspetta un attimo, io voglio provare un amplificatore. Guarda un po' adesso, siccome sto arrivando via Sorso, K. Quasi 9-10, poco aumentato, Di poco? Poco. Guarda un po', Ola. Non si è spostato di un millimetro. Bobo, buonasera a tutti. Guarda, adesso sempre basso, adesso ho staccato l'altro. Sto provando quest'altro apparecchio, ma sta arrivando, dai. Quello 6-8, modulati a 9. K, quindi va bene, dai. Adesso mi tolgo l'eco perché mi sta già... mi sta dando fastidio. Perché questo fa anche questo tipo di eco. Capito? Capito. Oh. Capo, ma è chiara però la modulazione. Ma io non ne uso e lo lascio così, mi piace più così senza eco, capito? Capo. Allora, sei Gianni. Ehi, anche io lo posso usare con l'eco e senza eco. Qui. Così è col checco. Checco e senza checco. Io a checco gli ho tolto le penne e me l'ho cucinato. E invece io l'ho mandato a fare un cabaret. Riprendi Giova, riprendi. Mi sono aperto, mi sono rigiurato di radio sondaggio e c'ho un cazzo di tappero, nasco che sono andato di latino a tappero, fuori di gatto. Ecco, attenzione al peroncino. Ecco, perso i cani da Fiorù, ribatte il gatto al peroncino da Giovanni Sacco, attenzione al peroncino, cambio, peroncino mi senti, cambio. Ma com'è? Cavagava, stanco e brutto, va. Peroncino ti si addice di te che ti perdi la vita. Mi piaceva, adesso non ne posso più bere, porca puttana. Mi piaceva, fino a qualche tempo fa, ma non ne dico più. E come va? Un po' di Ramadan, dai, io devo dire, Ramadan. Ramadan di rubita, ma non fare come fanno i marocchini e cose che fanno Ramadan, la mangiare la sera si riempizzano di roba, qui ci fai tu con la vita, così. Bravo, bravo. Avanti, Franco Lazzus, buonasera. Io però non ho capito una cosa già, non ho capito. Se sei tu peroncino, o si è vedo peroncino, a chi tu chiamai tu peroncino, e tu chiamo a te. No, peroncino l'ho messo io, il nominativo, l'ho battezzato io. E adesso non li va più bene, capito? Adesso non li va più bene, allora non lo chiamiamo più peroncino se non li va bene. Capo, lui ha detto, Giovanni stanco. E lui si va in chiamà. A chi si dà peroncino, tu me ne buccio e tu te lo dai. Peroncino, attento! Vedere, vecchio! Vieni avanti che ti voglio ascoltare, vieni avanti! Vabbè, incantatevi lì. No, stava entrando un altro, chi è? Ehi, Buonasera, ciao Cristian, dove sei? A casa. Già ti sentiamo lo stesso, va, anche se è un po' basso di radio, ma va bene. Io non so più come chiamarla Giovanni. Ciao Franco. Ciao Cristian, ben ascoltato. Mi senti bene, tu fai tranquillo. Ma ho capito Chris, scusa. Tutti bene? Sì, a voglia. Sono qua. Ehi, capo. Ehi, 6, 8, 9, la radio è bella, 5. Con la parte di fuochi, non è la casa mia, tu che ha. A me da un poco. Ehi, capo. Ma tu abiti qua nella Bugibugi? No, la Tensiota. Ah. E allora va bene, dai, già siamo vicini. Come dalla Baramubile adesso? Si vede che sei... C'hai il segnale con QCB? Già va bene, dai, tu sei piccolo piccolino, siamo da andare. Allora, tutti siamo piccolini piccolini. Vero già. E allora? Quando vogliamo essere piccoli siamo piccoli, poi se vogliamo essere più grandi siamo grandi. Fisicamente non sono piccolo, però ma... Cosa, Cristian? Fisicamente non sono piccolino, però dai, mi compenso. Fisicamente no, non posso cambiarla. Così sono che così rimango. Sento che io sono piccolino fisicamente. Anche tu piccolino, sì. Io sono piccolo e basso, sembra Calimero. Vai, vediamo il cuccetto. No, sono sceso di peso ultimamente. Aspetta che cambio radio, là, che faccio girare un po' le radio. Adesso sta riuscendo bene. E perché gogliate male? Quando lo sentiamo? Questo già Giovanni ne prendi. No, Giovanni deve fasciare due cuccioli. Poi ne scompasso. Allora, via, già ci sei Giovanni, Marco Mari, ti tengo vera. Rispondi al telefono, rispondi. Casa piange il telefono. Siamo lì da Giovanni e... A tutta forza. Guarda, prima Giovanni... Sono sento, fortunato, grazie a Dio, guarda. Bisogna... Ogni tanto esce bene, un po' esce bene, un po' esce male. E vedete che... Ho già dato a quel lineare poco fa troppo ingresso, gli ho dato, perché stava uscendo un bel male. Ma quale lineare? Il piccolo o il grande? Ma io non lo so che lineare c'ha. Uno piccolo e uno grande, il B2002. Gianni, tu sì? Sì, tu lo stai uscendo. Già sto uscendo, stavo spegnendo l'altro apparecchio, se lo fischiavo. Dai caro, caro. Beh, male esce questo. Mi piaceva più l'altro. Vabbè, ma non esce male. Io mi sono ascoltato e tutti quelli che c'ho non escono male. Tranquillo. No, male non esce. Non ho detto che esce male, però come modulazione mi piaceva più l'altra. Questo qua è un apparecchio, se lo vedi, rimane incantato. Praticamente li devo far girare tutti, perché se stanno fermi poi si rovinano. Si conferma. È per quello che ce li ho buttati via tutti io, me sono tenuto solo due, perché non devo stare lì a pensare che si rovinino. No, a me mi piace avere tutta la stazione, mi piace riempirmi l'occhio quando accendo tutto. Beata a te, beata a te. Dopo ti si guasta uno e non ce n'è più, non è così, invece qua c'hai... diciamo ne ho 2, 3, 4, 5, 6, 6 o 7, capito? Chiedo il permesso di salutare Claudio, cambio. E dopo l'hai sentito? Io ho sentito a Claudio ancora. Chiedo il permesso di salutare Claudio, cambio. E dopo l'hai sentito? Ma Claudio c'è perché? No, è entrato poco fa, ma se n'è andato. Scusate, mi adoro, va. È good. E andato. Sì, a posto, va. Avanti, Franco, California, sì, cambio basso. California, sì. Attento, Franco, California. Franco di Susso. Questo qua è Luis. È Luis con un microfono super, capito? che tipo diavolo rosso, ma non è il diavolo rosso. Ecco. Non sono presente la Luis, non ce l'ho. Però la radio c'è bene, non... cioè la radio che c'hai escono tutti bene, però da uno all'altro cambiano la modulazione. E infatti ti cambia la timbrica, ma tutte quelle che c'è sono efficienti, sino adesso perlomeno lo so. Ecco. Avanti Fabri. Ma se va che si busso a chiamare con l'ulinare e a sfrattare tutti i garanti. Attento Franco Califfo, passa su 10 che mi stai splatterando, cambio. Ti sbattera? Sì, mi splattera perché si attacca a lineare, per provare, è normale che mi splatti, siamo vicini. Non so se siete vicini, molto vicini però. Aspetta, date butta. Basta che non so, ci sono sei brutti sono oggi, eh. Ci sono, alla grande. Ah, vabbè, va. Al secondo 20:30 mi arrivo con gli splatti. Cosa devo girare? Fra, aiuta. E tu attacca. Ma cosa? Cosa ti stavo dicendo, Cristo? Non sei andato in giro oggi. Guarda, se io sono in giro a Sassari, posso garantire che ho un motore, no? Le state sono come due lui che ce li ha se li chiede, così li ziare prima. Ma giù però, guarda, c'è... Cioè... non lo so, non c'è nessuno di girapide neanche, che strano. Non ti ho risparmiato, ma tranquillo. E allora io controllo Cristian. Sei a Fondo Scala, radio 5 a fare, perfettissima. Fondo Scala sono. Io sono già a Pascoli. E dove sei? No, non ti ho capito. Dove sei? C'è la Sisa, la Kodak. Vabbè, io devo andare là perché se no mi splattera e non riesco a capire un cacchio. Andiamo là allora, vai. Cristian! Aspetto Peroncino, aspetto Peroncino, cambio. Peroncino, mi ascolti, cambio. Alessio è cotto. È inutile che faccio cucciù. Lo sai che ti ho conosciuto? Perché? Ah, io entra a cuocuomane. Tanto sei cotto. Non entri? Allora beccate questo. C'è qualcuno sul 10? CQ 10? Attenzione. CQ 10?